to the Lord a new song. Sing, sing, sing, sing, sing to the Lord. Sing, sing, sing, praise his name, praise his name, praise his name. Canta Iona. Canta Iaunari, canta Iaunari, Cantuveria, canta, canta Iaunari, canta Iaunari, Lui Gustia, canta Iaunari, canta Iaunari, canta Iaunari, Iaunari, canta Iaunari, canta Iaunari, Cantuveria. Benedicite nomini eius, benedicite nomini eius, ansiate diem de die, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare. Canta Iaunari, Lui Gustia, canta, canta Iaunari, canta Iaunari, Cantuveria, canta, canta Iaunari, canta Iaunari, Lui Gustia, canta, canta Iaunari, canta Iaunari. Domino, cantate, Domino, qui, canta Iaunari, Lui Gustia, canta, canta Iaunari, canta Iaunari, Cantuveria, canta, canta Iaunari, canta Iaunari.